donna, chi mi rapisce il mio ben, la mia vita è quella, è questa perla, così fatta d'altrui la bella mia, non vedrò meglio fia perderla che mirar da altri in braccio, seppur alla speranza al loco non resta per lusingarmi. Non avrò la mia sposa, ma avrò almeno il piacer di vendicarmi.